Buongiorno, io sono un'imprenditrice di Prato che sto lavorando, non ho più orari, non ho più niente, solo per salvare la mia piccola azienda. Stamani mattina mi sono alzata e a TG1 hanno detto che abbiamo entro maggio 85 tasse, anzi 85 scadenze da rispettare. Tanto non, noi italiani li troveremo, perché noi ci lamentiamo, borbottiamo, ma li troviamo e paghiamo. Io voglio solamente sapere una cosa, ma queste tasse sono pagate da tutti, ma, ma proprio per precisione, sindacati, politici, eccetera, li pagano come li paghiamo noi? E poi un altro appunto, noi come azienda, se sbagliamo, paghiamo o non veniamo pagati, ma questi due governi, di cui uno non ha fatto niente e ci ha portato alla rovina, viene sempre pagato? Loro percepiscano tutto? Rosalba, il problema di interrompere il flusso di pagamenti ai politici non ce ne occupiamo proprio. Io devo chiudere la trasmissione e darvi appuntamento domani 1° maggio, dedicato all'impresa che deve resistere. E se lo Stato non ascolta, calci in culo! Buon 1° maggio, a domani.